con Jacob Olesen, attore del recital letterario primo tratto da Se questo è un uomo di Primo Levi. Jacob, benvenuto. Grazie mille, buonasera a tutti. Che operazione è questa? È un'operazione che abbiamo preso, Se questo è un uomo, perché per noi è veramente molto importante oggi di fare questo, perché è quasi una missione, perché non bisogna assolutamente dimenticare, perché tutto ciò è successo 70 e passa anni fa, che veramente non sono tanti. E vorremmo che la gente vede queste cose qui e pensa che non deve mai succedere ancora una volta una cosa del genere. Per cui noi abbiamo preso delle parti di Se questo è un uomo di Primo Levi e abbiamo fatto una rappresentazione che dura più o meno 75 minuti. Qual è secondo te la forza di questo testo? E la forza è che ha raccontato tutto con razionale stupore. Diciamo noi, perché lui era un scienziato, era un chimico e l'ha scritto molto razionale, senza pietismi, senza troppi sentimenti o sensi di rabbia, però l'ha raccontato nudo e crudo. E noi abbiamo cercato di mantenere questa crudità, questa maniera come l'ha scritto lui in questa rappresentazione, per cui non sono tanto l'attore che soffre, ma è lo spettatore che soffre perché viene raccontato scientificamente e duro e diretto allo spettatore. Questo penso un po' Sì, come è strutturata la messa in scena? è strutturato che è il libro, inizia dall'inizio e finisce con la fine, soltanto che non sono tutti i pezzi, ma sono un po' i pezzi che per noi sono importanti. I motivi per cui anche Primo Levi racconta in altre interviste, in altri libri, i motivi per cui è sopravvissuto. Che uno, un motivo importantissimo è che ha incontrato questo suo amico Lorenzo, che gli ha dato un pezzo di pane e gli avanzi del suo arancio ogni giorno per 6 mesi. Ha scritto una cartolina in Italia e gli ha fatto avere la risposta. Per esempio, questo è uno. Un altro è che Primo Levi aveva studiato chimica e all'epoca, negli anni 30 e l'inizio degli anni 40, si studiava dai libri tedeschi, per cui lui conosceva il tedesco. E questo gli ha permesso di rispondere agli ordini nei lager e non prendere botte. Un'altra cosa è che come chimico è entrato alla fine del 44 nel laboratorio, è stato scelto per un laboratorio dove ha lavorato fuori del freddo. E poi un altro motivo è che alla fine si è ammalato di scarlatina e fu ricoverato in infermeria e non è partito nella casa di evacuazione dove sono partiti tutti della notte del 18 gennaio 1945. Morti quasi tutti. Sì. Dove state portando questo recital? Siamo stati una settimana a Roma, al Teatro Argentina, poi abbiamo fatto una rappresentazione a Parigi, a Budapest, ad Atene, a Belgrado, è uno spettacolo che gira. Siamo stati a Mosca, siamo stati a Praga, in Albania, no, è uno spettacolo che funziona bene, è un recital che veramente viene apprezzato da tutto il pubblico. Quando lo fanno, per esempio, per i licei, per noi è fondamentale perché i ragazzi dei licei, loro non, per loro sembra una cosa molto lontana, già come se fosse stata come la rivoluzione francese, invece sono soltanto 70 anni fa. I nostri genitori, io sono di questa generazione, sono stati presenti. Senti, com'è rappresentare la Shoah da soli in scena? Sono parole dure, sono parole dove si spiega le atrocità terribili e veramente, però nello stesso tempo li sento come una missione, perché è forte, è importante che lo spettatore sente queste parole e le ascolta e le fa diventare un po' sue e soffre un pochino. Chiaramente è uno spettacolo dove non si va a ridere, non si va a divertire, però si va a immaginare, perché è fatto anche in modo raccontato e usiamo anche l'immaginario dello spettatore, perché è lo spettatore che deve immaginare com'era e erano le situazioni dentro il lager. Jacob, ci sono dei riferimenti internet per saperne di più su questo lavoro e sulla vostra attività? Sì, basta cliccare prima Jacob Olesen e si trova. Perfetto. Poi chiaramente vorrei veramente dare il merito al produttore Enrico Caretta e soprattutto al regista del recital che è Giovanni Calò. E Benissimo. poi le musiche sono state fatte da Massimo Fedeli, di Antonio Verardi e il disegno luce di Luca Cendrano. Questo film che abbiamo lavorato insieme e siamo veramente riusciti a fare un prodotto molto interessante. Non si annoia mai, segue con intensità dall'inizio, dal primo minuto fino all'ultimo. Allora, un ringraziamento e un saluto a Jacob Olesen, ricordando primo il recital letterario tratto da Se questo è un uomo di Primo Levi. Jacob, un saluto e a presto. Saluti, arrivederci e ci vediamo al teatro.